get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, sono Caterina. Quest'oggi voglio parlarvi di una donna che si può tranquillamente inserire nella rubrica che da un po' di tempo a questa parte sto cercando di curare, Donne e Storia. Fino ad oggi vi ho raccontato la vita di donne vissute in epoche diverse che avevano però in comune il pregio di aver segnato la storia, sia pure con modalità e motivazioni diverse. A dispetto di tutti gli storici di ogni epoca, i quali non hanno mai assegnato loro il merito delle loro imprese, delle loro scoperte e delle loro opere. È mia intenzione effettuare un'opera di riscatto nei loro confronti che ci possa far capire quanto le donne siano da sempre sottovalutate, relegate a ruoli di gregarie, non incentivate ed in generale non rispettate per i loro saperi e per le loro capacità, a volte di gran lunga superiori a quelli maschili. In ogni caso, tutte le imprese di saperi conquistati dalle donne sono il frutto di una caparbietà e di una volontà senza eguali e i risultati raggiunti sono venuti a dispetto dei santi. La storia di oggi, poi, mi fa pensare ancora di più, in modo particolare per il fatto che si tratta di una giovane donna italiana e per di più contemporanea. Per indicare le storie di questa rubrica mi ero abituata a ricercarle nel passato, andando indietro nel tempo, forse perché immaginavo, o meglio speravo, che tutto sommato le cose si fossero almeno modificate un pochino. Comincio ad essere sempre più convinta, invece, che il lavoro da sempre fatto dagli storici sia stato guidato da dettami molto profondi, scritti da chi non ha interesse alcuno a far sì che le donne prendano coscienza delle proprie capacità. Una volta si diceva dei potenti che preferivano lasciare il popolo ignorante perché così non si sarebbe mai ribellato. Oggi il discorso è molto più sottile. Sulla capacità delle donne di ribellarsi abbiamo un'ampia documentazione e tutto il movimento femminista la fa da padrone, ma il potere maschile effettua giornalmente delle limature, delle scremature e dei livellamenti, tanto da convincerti che tu donna stai guadagnando terreno, ma in realtà prendi 10 e paghi 100. Per semplificare al massimo il discorso, posso fare l'esempio della festa dell'8 marzo. Oggi pochissimi ricordano che l'8 marzo è una ricorrenza legata alla morte di operaie chiuse dentro una fabbrica che il padrone aveva incendiato. Non ho più 20 anni, è vero, però io ricordo negli anni 70 le manifestazioni fatte in quella data. Erano situazioni guidate da motivazioni politiche e di lotta. Con il passare degli anni, ogni 8 marzo diventava sempre meno politico e meno di lotta. Ho percezione dell'inizio e della fine. Ricordo infatti mariti o compagni delle mie colleghe che li accompagnavano alle manifestazioni. Passa ancora qualche anno e gli stessi mariti o compagni organizzavano le cene con festa a seguito, dove i camerieri, rigorosamente tutti maschi, avevano il compito di servire. Poi sono seguite le innovazioni nelle pasticcerie. Ricordate la torta mimosa? Quando fu inventata fece furore, ma non è ancora finita. L'8 marzo è stato ricordato, non tanti anni fa, anche negli spot pubblicitari che reclamizzavano cioccolatini, alla stregua della festa della mamma. L'8 marzo oggi? Ormai è un giorno concesso. L'importante è che però il 9 e il 7 marzo sia tutto come al solito, come sempre, come prima. Forse è per questo motivo che da anni non esco volutamente di casa l'8 marzo, che volutamente esco sempre quando decido io e non quando è consentito, e se proprio sento l'esigenza di fare qualcosa con altre donne, cerco luoghi che mi corrispondano, che abbiano una connotazione politica particolare. Quest'anno, infatti, sono andata alle iniziative programmate dal Centro Femminista Separatista all'interno del Buon Pastore di Roma. L'esempio che ho fatto è certo molto banale, ma credo possa farvi comprendere quello che intendo quando parlo di lavoro sottile da parte del potere maschile. Ma Ma perché sto facendo tutte queste considerazioni? Perché la storia di Gelsomina d'Estasio la dice lunga. Chi è Gelsomina? Ero sicura che nessuna sapesse chi fosse. E per forza, né i giornali né i media in genere hanno parlato di lei. Eppure Gelsomina, che ha 33 anni, il 18 novembre scorso ad Honolulu ha ricevuto una sorta di premio Nobel per la fisica, il TOIP, le cui iniziali stanno per, scusate il mio inglese, The Outstanding Young Person of the World, e significa cioè giovani persone del mondo fuori della norma. Il TOIP, dicevo, è una gara internazionale che premia giovani talenti e si conclude con l'assegnazione di questo riconoscimento per il quale concorrono 116 paesi. Ricordate a dicembre scorso tutti i servizi, le dirette, le differite, i dibattiti e tutti i commenti che si sono susseguiti sia in televisione che sui giornali in occasione del premio Nobel per la letteratura assegnato a Dario Fo? Bene, mai nessun riconoscimento di questo tipo ha avuto la mia completa approvazione come in questo caso. Ritengo infatti Dario Fo un grande, ma per la miseria. Meno di un mese prima, Gelsomina d'Estasio veniva insignita di un riconoscimento internazionale e neanche una parola. E la cosa è risultata ai miei occhi ancora più sconcertante quando ho scoperto perché Gelsomina aveva vinto il TOIP. La d'Estasio è una ricercatrice particolarmente impegnata in studi contro il cancro al cervello. Ma Gelsomina, forse non soddisfatta abbastanza delle apparecchiature esistenti, ha progettato e realizzato Mefisto. Mefisto è uno spettro microscopio il quale, a differenza di un microscopio elettronico che riesce a far vedere solo la struttura del campione esaminato, riesce a far individuare anche i materiali che lo compongono e, soprattutto, il loro stato chimico. Per cercare di essere più chiara, prendo in prestito le parole della stessa Gelsomina, la quale spiega: la terapia del cancro è basata sull'assorbimento del boro da parte delle cellule tumorali. Quelle del tessuto sano lo espellono entro 24 ore, il che vuol dire che, dopo quel lasso di tempo, con Mefisto puoi individuare i tessuti contenenti boro bombardandoli con neutroni a bassa energia e uccidendo solo le cellule cancerogene. Queste sue capacità fanno sì che Gelsomina sia ricercata e richiesta da grandi compagnie internazionali per consulenze, ed anche il giornale Newsweek, rivista che parla di giovani in grado di esprimersi in più lingue e che hanno incarichi, abitazioni e relazioni sociali in più paesi, le ha dedicato una copertina. Ma anche Gelsomina ha una sua storia. Come lei stessa racconta, per alcuni anni ha fatto da gregaria al fratello che studiava biologia. È andata via di casa a 22 anni e si è mantenuta per un po' dando ripetizioni, facendo l'idraulico, il falegname e l'imbianchino. Fino a quando, sempre mentre seguiva suo fratello, partecipò con lui ad una conferenza tenuta dalla dottoressa Rita Levi Montalcini che riguardava l'anatomia cerebrale. Alla fine della conferenza, Gelsomina si è avvicinata alla Montalcini chiedendole come si poteva riuscire a seguire le sue tracce. «Studia fisica e non medicina come me, potrai facilmente applicarti in qualsiasi altra disciplina», rispose. A Gelsomina bastò. Cambiò facoltà e il resto della sua vita entra nella storia, meno che in quella italiana. Voglio concludere con un'altra scoperta di Gelsomina, affidandomi ancora alle sue stesse parole. Vuole sapere se intelligenti si nasce o si diventa? Un po' l'uno e un po' l'altro. Comunque, uomini e donne ragionano in modo differente. Alcuni esperimenti sul cervello fatti in California mi hanno lasciato a bocca aperta. Selezionato un gruppo di studenti di Harvard, sono stati loro sottoposti complicati problemi di matematica e fisica. Mentre li risolvevano, attraverso la risonanza magnetica del loro cervello, si è visto che il glucosio, dove c'è più glucosio c'è più attività cerebrale, nei ragazzi si concentrava in un punto preciso, nelle ragazze era sparso un po' ovunque. Non è buffo che la differenza sia dovuta a caratteristiche fisiologiche, oltre che culturali? Giro a voi lo stesso quesito, domandandomi e domandandovi se questi particolari il potere maschile li conosceva già, se anche li percepiva soltanto, e se il solo supporlo ha fatto sì che da secoli il potere maschile ha fatto di tutto per sottovalutare, affossare, disconoscere e sminuire chi è a lui superiore. You see, we're under the same sky, babe. You're bound to realize. Il brano che avete appena ascoltato era dell'Indigo Girls dal titolo Land of Canaan. Ciao, sono Claudia e questa sera vorrei proporvi una nuova rubrica, Le donne nel rock. Essendo noi sempre interessate alla scoperta e alla rivalutazione della capacità e della creatività femminile, ho pensato di iniziare questa ricerca nell'ambito a me più congeniale, che è quello della musica. Questa sera, come avrete capito dalle note di sottofondo, vi racconterò la storia di Billie Holiday. Billie nasce nei bassi fondi di Harlem alla fine degli anni 20, donna nera e illegittima. Per tutta la sua vita le fu imputato questo suo essere. L'America degli anni 30 e 40 era all'apice del razzismo. Figuriamoci se avrebbe mai potuto riconoscere le qualità di Billie, che oltre ad essere nera e illegittima, andava anche oltre tutti gli schemi che relegavano le donne di colore al massimo nel ruolo di cameriera. Non sappiamo con certezza se per coscienza reale o per un'innata voglia di libertà, ma a soli 9 anni Billie già rifiutava l'etichetta datale come bambina proveniente da famiglia di cattiva reputazione. A quei tempi, essere figli illegittimi per 2 volte, visto che anche sua madre era illegittima, era considerato peggiore della mera povertà. Chiaramente questa etichetta condizionò l'esperienza della ragazza alle scuole pubbliche. Billie quindi rifiutò l'istruzione molto presto. A 9 anni, infatti, si rifiutava spesso di andare a scuola, tanto spesso che fu spedita alla casa del buon pastore per ragazze di colore. Anche in America, come del resto qui a Roma, la casa del buon pastore era un orfanotrofio cattolico con annesso riformatorio per ragazze fuori dalla norma. All'inizio di questo secolo, parliamo sempre di anni 30, l'unica chance per le donne di colore, che le donne di colore avevano per migliorare la loro condizione, era quella di andare a fare la domestica nelle case dei bianchi ricchi. Ma Billie Holiday non arrivò mai oltre le scuole medie e si rifiutò sempre di fare la cameriera. Verso i 12 anni cantava nelle piccole buie topaie jazz di Harlem, dove i musicisti di colore riconoscevano nella sua voce un timbro unico e fumoso. Purtroppo nessuno di loro aveva il potere di renderla una star. Verso la fine degli anni 30, l'Europa era impegnata contro il nazismo, mentre la Holiday, in America, lottava contro le leggi discriminatorie contro i neri, le quali non permettevano agli artisti di colore di andare in tournée con gruppi misti. La sua irriducibilità la portò a ottenere, verso la fine degli anni 40, ad essere una delle donne più pagate tra tutte le cantanti di cabaret che allora erano nel circuito newyorkese. Recitò accanto a idoli come Duke Ellington e Louis Armstrong. Nel periodo del suo massimo successo fu spesso accompagnata da mariti e fidanzati parassiti. Nello stesso periodo una canzone la rese famosa, Strange Fruit, le cui parole tratte da una poesia sbattevano in faccia alla borghesia dominante gli orrori del razzismo del sud. Una frase di questa canzone dice: gli alberi del sud hanno dei frutti strani, con sangue sulle foglie e sangue sulle radici. Questa era la canzone di chiusura dello spettacolo, dove lei era l'attrazione principale del locale. Prima ancora che la Holiday riuscisse a registrare Strange Fruit, il valore dell'esecuzione era così grande che molti stati misero a bando la canzone. Sfidò le convenzioni del razzismo americano, entrando a far parte come solista in un gruppo formato esclusivamente da uomini bianchi, con il quale andò in tournée alla fine degli anni 30. Malgrado i suoi risultati creativi ottenuti per tutti gli anni 50, Billie Holiday ebbe purtroppo da parte dei giornali scandalistici una pubblicità negativa, tanto che la sua morte nel 1959, a soli 44 anni, venne ricordata principalmente per la sua dipendenza dall'eroina e per innumerevoli arresti per droga. La caratteristica costante di Billie Holiday è senz'altro la coerenza con le sue idee. Non ha mai rinnegato la sua provenienza, non ha mai rinnegato le sue scelte di vita e il suo essere incorreggibile e fuori dagli schemi. Negli ambienti in cui si esibiva, stava sempre a contatto con persone altrettanto incorreggibili, come alcolizzati, eroinomani e spacciatori. Del resto, neanche lei disegnava tutto ciò. Fu spesso arrestata per possesso di droga, ma la vera ragione di una così caparbia ostinazione nei suoi confronti da parte degli agenti federali aveva connotazioni ben diverse dal punirla per droga. Quella vera era di stampo politico. Infatti Billie Holiday collaborava con simpatizzanti comunisti e aveva la potenzialità di rendere questi ultimi e il suo stile di vita attraenti agli occhi della gioventù americana. Purtroppo, per questi motivi, gli fu interdetto l'accesso in tutti i locali di New York. Il 12 giugno 1956 i poliziotti arrestarono la cantante addirittura in ospedale, dopo aver trovato un pacchetto di eroina nella sua stanza. A luglio morì. Compatirla non le rende giustizia. Indubbiamente a Billie Holiday piacevano molto le cose che le facevano male, principalmente però le piaceva essere audace e spiritosa. Tanto quanto i suoi accompagnatori jazz, le piaceva essere considerata uno dei ragazzi. Di tutto aveva bisogno, tranne che del moralismo borghese, al quale di certo non si piegò mai. E ora ascoltiamo insieme una canzone tratta dal suo album My Greatest Song, dal titolo Baby, I Don't Cry Over You. Lunch all alone, waited for you to phone. Said you'd call me at 2. So by 3:20, I had cocktails with Lee. Baby, I don't cry over you. Stood me up in the rain, tried to hurt me again. bet you thought I'd be blue. I went out to a show with a swell guy named Joe. Baby, I don't cry over you. These foolish games you keep playing might work with somebody else, but I could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do, I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I don't cry over you. C'è che dire, se l'intento dei giudici della seconda sezione della Cassazione era quello di fare notizia, hanno senz'altro fatto centro. Per la terza volta in poco tempo hanno risvegliato una sopita opinione pubblica con sentenze da Guinness dei primati. Peccato solo che i primati raggiunti siano un sostanziale passo indietro rispetto alla tabella di marcia che un paese democratico dovrebbe fare. Certo che, analizzandole ad una, c'è di che farsi venire un attacco di rabbia, ma ricordiamole insieme queste sentenze. Primo, se indossi un paio di jeans è impossibile essere stuprata. Due, se l'uomo che infastidisce una donna è sinceramente innamorato non può considerarsi molestia e, per finire, speriamo. Terzo, quando si costringe una donna ad un rapporto sessuale senza il suo consenso, anche se è incinta di 7 mesi, non ci si può avvalere dell'aggravante. Dicevo prima che in un paese democratico queste decisioni legislative non dovrebbero neanche affacciarsi dalla porta di servizio. Solo che, alla luce anche di tutto ciò che sta succedendo oggi, mi viene il sospetto che forse l'Italia non è un paese così democratico come vorrebbe far credere. Sto pensando, per esempio, alla posizione presa dal governo italiano nei confronti della guerra in Serbia. Sembrerà assurdo e devo dire che mi stupisco io stessa, ma mi stanno facendo rimpiangere Craxi e Andreotti. Andreotti non diede alla NATO l'autorizzazione ai decolli da Sigonella per i bombardamenti in Iraq. Ma non è l'unica cosa legata alla guerra che mi fa pensare che forse non per tutti la pluralità d'opinione è un valore condivisibile. Alle manifestazioni indette da diverse associazioni, partiti e sindacati di base, la stampa e i mass media di regime hanno dato uno spazio misero e non rispondente alla realtà. C'è una parte considerevole del popolo italiano che sta dicendo no alla guerra, eppure, per il telegiornale nazionale, le più di 100.000 persone scese in piazza sabato 10 aprile erano soltanto poche decine di migliaia. Ma al di là di tutto mi chiedo, quale paese democratico può pensare che una guerra possa essere utile e giusta? Milosevic è senza dubbio un criminale, ma la pioggia di bombe che stanno devastando la Serbia sono il risultato di una sconfitta della diplomazia. L'accordo di Rambouillet era inaccettabile per i serbi, e lo sapevano tutti, anche Dini, nostro ministro degli esteri. Eppure, ora siamo in guerra, però coraggio, c'è la missione arcobaleno istituita dal governo. È certo uno strano modo di esternare e propagandare la solidarietà. Ma torniamo all'argomento principale di questo intervento, le sentenze della Cassazione. Vi ricordo che, nel suo interno, la Cassazione vede la presenza di sole 10 donne su un totale di oltre 400 giudici. Una constatazione amara ed un'altrettanto amara deduzione. In Italia i codici giuridici parlano al maschile ed è sicuramente vero che nel nostro paese, con queste premesse, la legge si interpreta per gli amici, ma si applica per i nemici. Ci accompagnerà ora Mariella Nava con il brano Voglio diventare ricca. Bye. Gli appuntamenti. Dal 16 al 30 aprile, nello spazio espositivo della Casa Internazionale della Donna di via San Francesco di Sales 1B, è allestita una mostra intitolata Sui Generis, su iniziativa dell'AFFI, della pittrice Pina Nuzzo. Incontro da donne a donna sull'esperienza di un'artista che da anni svolge una ricerca di ordine figurativo volta prevalentemente ad individuare un linguaggio femminile di interpretazione del mondo. Una serie di oli e acrilici che si caratterizzano per la misura e la concentrazione dei rapporti tra le figure o tra gli oggetti. Pina Nuzzo è nata a Catania nel 1951 e svolge da molti anni una ricerca propriamente pittorica. I contenuti iconici non giocano soltanto sulla figura femminile, ma anche su tutti quegli elementi della composizione volti a configurare uno spazio colore che restituisce soggettività allo sguardo. Si è svolta il 17 aprile la festa di inaugurazione del Centro Femminista Separatista del Buon Pastore di Roma. I diversi gruppi operanti all'interno del CFS hanno presentato le loro attività. Il coordinamento lesbiche romane, tra l'altro, ha parlato di questa trasmissione radiofonica. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, con l'ausilio delle donne del martedì femminista autogestito di Radio Onda Rossa, presenti con noi all'iniziativa. In quel contesto il CLI e il CFS hanno reso pubblico il calendario delle iniziative che intendono svolgere nei mesi a seguire e che prevedono il 24 aprile, il 5 e il 19 maggio gruppi di lettura del libro Il desiderio senza nome di Sandra De Perini, che si concluderanno incontrando l'autrice il 1 o l'8 giugno. Nelle prossime trasmissioni daremo la data precisa di questo incontro con la De Perini. Il 1 maggio il consueto picnic a Villa Panfili, a piedi nudi nel parco. L'11 maggio l'incontro con Daniela Danna sull'argomento Io ho una bella figlia. Il 2 giugno si svolgerà la proiezione del film Grown on Stanley Knife, vincitore del premio messo in palio nella penultima edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria del 1998. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio femminista autogestito di Radio Onda Rossa sugli 87.900. Il coordinamento lesbiche romane si riunisce nei locali del centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1B tutti i lunedì a partire dalle ore 20.30. Vi ricordiamo il nostro numero telefonico e il numero fax tramite il quale potete contattarci in ogni momento: 06 6864 201. Per la musica lesbica indipendente abbiamo scelto un pezzo tratto dall'album Nelle chicche la luna, Ready for Love. Ready, ready for love. Like a spark. notizia, a suo modo sensazionale, ci viene dalla Norvegia. Riguarda una vescova luterana di nome Rosemary Cole ed una pastora dal volto sicuramente molto simpatico di nome Siri Sund. La pastora Siri Sund ha formalizzato la propria unione con la sua compagna Eleonor attraverso il Partnership Act. E questa è una legge che riconosce alle coppie omosessuali gli stessi diritti delle coppie eterosessuali sposate. Il fatto di aver voluto legalizzare questa unione ha significato per Siri Sund l'immediato allontanamento dalla Chiesa sotto forma di congedo forzato per un periodo di circa 18 mesi. Si doveva prendere una decisione, licenziarla o no. Lo scandalo per la Chiesa luterana era troppo grande. La vescova Rosemary Cole si è schierata a favore della pastora, andando così a scontrarsi con l'ala conservatrice della Chiesa protestante norvegese. La vescova, diretta superiore della pastora, era l'unica ad avere il potere decisionale riguardo il licenziamento o no di Siri Sund. Ma la vescova, unica donna a coprire una carica tanto importante, ha riconfermato nel suo mandato la pastora Siri Sund. Poco fa Caterina ci ha fatto notare come, anche qui in Italia, la presenza massiccia di uomini all'interno della Cassazione fa sì che le decisioni e le sentenze emesse abbiano connotazioni decisamente di parte. Considerando che in Norvegia, nella Chiesa protestante, la percentuale di donne sia solo del 10%, la dice lunga. Il Consiglio della Chiesa norvegese dichiara che gli omosessuali possono lavorare per la Chiesa, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche ufficiali. Possono continuare, ad esempio, ad essere amministratori o organisti. Ne deduciamo che la Chiesa riconosce gli omosessuali, ma non consente loro di esternare il proprio essere altro, quindi tenta di cancellare la loro sessualità. E se al posto della vescova ci fosse stato un vescovo, come sarebbe finita? Rosemary Cole risponde così: è difficile dirlo con certezza. Alcuni dei colleghi che mi hanno sostenuto hanno poi rilevato che non avrebbero potuto prendere la mia stessa decisione. A noi viene spontaneo pensare che forse, in quel caso, Siri Sund sarebbe stata quasi sicuramente licenziata.